con l'autrice e attrice Chiara Becchimanzi per parlare dello spettacolo Precario Diario al Teatro del Lido di Ostia il 27 ottobre con Monica Fabrizi, Claudia Sorrentino ed Elisa Spanò. Chiara, ben trovata. Ben trovato Federico, grazie mille. Ce lo presenti? Certamente, allora, Precario Diario è il sottotitolo di un titolo abbastanza altisonante, cioè Epic Fail, che ci fa ben capire in che direzione andiamo. Parliamo dei fallimenti della società moderna, tra questi fallimenti c'è appunto il mondo del lavoro e per la nostra generazione assolutamente precaria vuol dire essere alla continua ricerca di una stabilità, no? Di tutti i tipi. E quindi raccontiamo attraverso una serie di paradossi che però partono da scene di vita realmente vissuta da noi povere lavoratrici under 35 e under 40, la follia del precariato, i ritmi rutilanti, i continui disastri, i compromessi, però senza mai perdere la leggerezza del gioco teatrale, un spettacolo assolutamente comico, clownesco, che scivola tra satira, teatro civile, commedia, per far riflettere, ma sempre ridendo, come un po' nello stile di Valdrada, ecco. Ed è una sfida ancor di più perché, oltre ad essere una drammaturgia collettiva, cioè scritta a otto mani, è anche una regia collettiva, cioè ci siamo dirette insieme, quindi è proprio una storia di grande condivisione. Com'era nata l'idea e come l'avete sviluppata? Ma l'idea è nata proprio da quelle serate in cui tu condividi un po' per necessità terapeutica con le tue compagne di lavoro, che poi diventano anche come un po' una famiglia, no? Tutti i disastri lavorativi in cui sei capitata, no? E quindi, siccome alcuni di questi sono assolutamente comici e se si osservano bene, si possono cogliere quali sono le idiosincrasie della nostra epoca, della nostra società, abbiamo scelto di raccontarle, chiaramente partendo dal realismo per poi andare a, come dire, a calcare un po' la mano su certi temi, ecco. Ci racconti anche un po' l'esperienza di Valdrada Teatro? Allora, Valdrada è una compagnia teatrale che è interamente gestita da artiste donne, under 35. Siamo nate nel 2010, esattamente, attraverso una serie di produzioni teatrali per ragazzi e per adulti, e poi abbiamo cominciato anche ad organizzare una serie di eventi, manifestazioni culturali con il sostegno della regione, del comune, della provincia, attraverso i bandi pubblici, con una grande attenzione alle periferie. Perché noi abbiamo base ad Ostia, no? Che soprattutto in questo periodo, nei mesi passati, no? È salita alle luci della cronaca, ma è anche un luogo dove il fermento culturale è molto attivo, è molto fertile ed è un luogo in cui ci piace lavorare per ricostruire, ma anche per raccontare che c'è una comunità culturale e artistica che ha bisogno che si intervenga sul territorio e che ha bisogno di non essere abbandonata in generale, no? Quindi ci sono questi due fronti paralleli per Valdrada. Uno è la produzione degli spettacoli e l'altro è l'organizzazione appunto degli eventi con l'attenzione alle nuove generazioni e alle periferie. Infatti Precario Diario, tra le altre cose, è uno spettacolo che ha ricevuto per la produzione il sostegno della Regione Lazio. Quindi fa parte di quegli eventi anche istituzionali, se vuoi. Si tratta di una prima e poi volevo sapere anche se poi proseguirà il suo percorso. Allora, no, non è una prima perché la prima è stata nell'ambito del Roma Comic Coffee il 21 settembre al Teatro Lo Spazio e proseguiremo poi il 3 novembre al Teatro Tognazzi di Velletri e anche il 16 dicembre a Magliano Sabina con una serie di appuntamenti che stiamo cercando di chiudere perché non c'è vita più precaria dell'artista, tu lo sai bene, gli accordi con i teatri si chiudono all'ultimo minuto, ma invece lo spettacolo che c'è il giorno dopo al Teatro del Lido, ovvero il secondo capitolo della trilogia Epic Fail, perché Epic Fail è in realtà una trilogia, si chiama Di altri demoni ed è una prima assoluta ed è un esperimento teatrale itinerante attraverso il quale cerchiamo di parlare di violenza di genere e violenza nelle relazioni intime attraverso il punto di vista maschile. quindi ci sono solo uomini, scena sabato sera solo donne, domenica sera solo uomini. Abbiamo fatto così, un colpo al cerchio, uno alla botte. Ci lasci tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Assolutamente sì, ci sono i due eventi Facebook, Epic Fail Precario Diario ed Epic Fail di Altri Demoni. Le repliche sono alle 21 sabato sera, invece domenica alle 18.30 e alle 21. E poiché domenica lo spettacolo è itinerante ed è prevista la presenza di massimo 40 spettatori, si consiglia la prenotazione, anzi si prevede la prenotazione all'indirizzo info@valdradateatro.it. Comunque sul profilo Facebook di Valdrada Compagnia Teatrale, su Instagram Valdrada Teatro e anche sul profilo del Teatro del Lido di Ostia si trovano tutte le informazioni al riguardo. Ricordiamo l'appuntamento con Precario Diario e anche l'altro spettacolo del giorno dopo, del E 28, Altri Demoni. di Altri Demoni. Chiara Becchimanzi in scena con Monica Fabrizi, Claudia Sorrentino ed Elisa Spanò per il 27 al Teatro del Lido. Il giorno dopo lo presenti tu? Certo, allora di Altri Demoni, Epic Fail di Altri Demoni con Daniele Parisi, Raffaele Balzano, Valerio Rizzi ed Emanuele Vallone e con anche qualche presenza femminile perché ci sarà Margherita Franceschi, Giulia Vanni, Monica Fabrizi di nuovo e anch'io. Ed è una drammaturgia collettiva costruita anche grazie alla consulenza psicanalitica di Matisse Conte Duca, una psicoterapeuta che ci ha, diciamo, supportato nel processo drammaturgico. E sì, ti ho detto tutte le maestranze, penso di non essermi dimenticata nessuno. Siamo tantissimi, un sacco di gente. Un saluto, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi o viva, a seconda dei gusti, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao.